Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 70. Stasera iniziamo subito con una new entry nel nostro programma. Si tratta del gruppo di Delta Moon, che ho scoperto da poco tempo e che ho ascoltato veramente con piacere. Hanno pubblicato un CD che si intitola Lowdown, dal quale io ho selezionato per voi questo pezzo che ritengo piuttosto interessante. Wrong Side of Town. Buon ascolto quindi con i Delta Moon. Like you've been a long time coming. I thought maybe you were gone for good. But if you're broke or you're just slumming, it's good to see you back in the neighborhood. Across the track, welcome back to the wrong side of town. You say you're rolling in the money, and now you're dressed to play the part. But you ain't fooling yourself, honey. Still an alley cat at heart. Across the track, you'd like to put it down. Welcome back to the wrong side of town. Niente male questi Delta Moon, una voce piuttosto interessante, graffiante, forte, rude, nello stesso tempo una ballad tanto per iniziare, né troppo forte né troppo morbidamente, un pezzo equilibrato questo Wrong Side of Town, che tratto dal CD Lowdown che Delta Moon ci offre proprio per iniziare nel modo migliore. E adesso andiamo avanti con una cantante particolare che ogni tanto è un po' border rispetto al blues, ma che abbraccia il blues quasi completamente. Molto interessante, ha realizzato un CD intitolato Down in the Dirt, si chiama Amanda Fish e noi stasera la potremo ascoltare in I'm Make You Love Me. Buon ascolto quindi con Amanda Fish. You just don't know it yet. I'm gonna make you love me. You just don't know it yet. Like a spider to a fly, yeah, I'ma catch you in my way. E questa era la voce di Amanda Fish, una cantante di una certa potenza, con una bella estensione, una capacità anche espressiva notevole, che le permette di interpretare bene le varietà del suo linguaggio. Come ho detto prima, cantante sì blues, ma cantante che spazia anche nell'R&B, come avete sentito ci sono queste atmosfere R&B, e poi ci sono anche atmosfere che sfiorano il country pop. Comunque diciamo che è una cantante blues con una bella grinta, con le capacità e le caratteristiche ottime, ottimali per fare la cantante blues. Amanda Fish. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato I'ma Make You Love Me, tratto dal CD Down in the Dirt. Adesso andiamo avanti con Jay Records Singleton, che per la Alligator ha realizzato nel 2014 un CD intitolato Refuse to Lose, e da questo CD noi ci potremo ascoltare Crime Sheen. Buon ascolto con Jay Records Singleton. This is a crime scene, baby. Not the kind on your TV. This is a crime scene, baby. But not the kind on your TV. And the victim is me. You know I never had a chance. You ripped the heart right out of me. And now there's a big cold hole where my heart used to be. A mentalist could have seen it coming. Your love was never true. You never really wanted me the way I really wanted you. This is a crime scene, baby. Not the kind on your TV. This is a crime scene, baby. And the victim is me. Don't need no FBI to close this case. There's no DNA that they need to find. Prepared to face the facts. I know I can't chain you down. I just want my heart back. Hey, this is a crime scene, baby. But not the kind that's on your Bene, questa era la musica di Jay Rakes Singleton, ottimo vocalist ma anche grandissimo chitarrista. Avete sentito nei suoi fraseggi, nelle sue improvvisazioni, veramente un valido bluesman a tutto tondo. Il CD in questione è intitolato Refuse to Lose, pubblicato nel 2014 dalla Alligator, e il pezzo che ci siamo ascoltati è una composizione originale di Jay Rakes Singleton intitolato Crime Scene. Dopo Jay Rakes Singleton è il momento di Jimmy Thackeray, molto poco conosciuto qui da noi, anch'io l'ho scoperto da poco. Questo qui è un pezzo tratto da un CD del 1995, il pezzo si chiama Edwards Blues, il CD era intitolato Wild Night Out. Forse questo del 95 è uno dei CD più interessanti della carriera di questo musicista, Jimmy Thackeray. Buon ascolto. Thank you. Bravo questo Jimmy Thackeray, che ripeto, musicista poco conosciuto, ma che ha realizzato tante belle cose, tanti bei CD, tanti bei progetti discografici veramente interessanti, come questo intitolato Wild Night Out, uscito nel 1995, nel quale ci sono pezzi sia nei fast sia negli slow veramente molto belli, belli dal punto di vista tecnico, sicuramente belle prestazioni come in questo caso, come abbiamo sentito in Edwards Blues, dove abbiamo potuto gustare degli assoli di chitarra veramente molto belli, molto coinvolgenti, ma anche delle belle interpretazioni sentite, quindi con animo, con vera partecipazione interiore. Jimmy Thackeray, Edwards Blues, dal CD Wild Night Out, pubblicato nel 1995. E adesso un italo-americano che proprio quest'anno ha pubblicato un CD veramente interessante e meritevole della massima attenzione. L'artista si chiama Tony Rondini e il CD è intitolato No Use for the Blues, e noi ci potremo ascoltare On It. Buon ascolto con Tony Rondini e la sua composizione originale. You're sitting there in the dark, knowing it's a bit too late, with nowhere to run and nowhere to hide. Stepping up to the plate, and little time on your side. It's quite a web that's been spun, but when mistakes are made, it's usually said you can't undo what you've done. But there's a way to save face and the chance to carry on without disgrace. Most of the world will Questa era la musica di Tony Rondini. Tony Rondini, validissimo vocalist, con la voce giusta, come si suol dire, nello stesso tempo anche ottimo chitarrista, tra l'altro con sonorità diversificate, il CD è veramente godibile. Ci sono pezzi sempre con grande energia, con grande forza espressiva e sicuramente con carattere, un bluesman niente male, veramente. Tony Rondini, che vive il blues abbracciando anche il rock, con questo CD pubblicato nel 2015, proprio quest'anno, No Use for the Blues, si è messo in evidenza e noi ci siamo ascoltati questa sua composizione originale intitolata Own It. E adesso andiamo a sentire un'altra band che si presenta per la prima volta nei nostri programmi e che anche lei ha pubblicato proprio fresca fresca quest'anno una pubblicazione veramente interessante intitolata Smoke Dog Music. Da questo CD noi ci ascolteremo una loro composizione originale. La band si chiama A Band Named Trevor, quindi ha un nome molto particolare, A Band Named Trevor, e il pezzo è intitolato My Baby Blues. Buon ascolto con A Band Named Trevor. Thank you. Questo era il gruppo che si chiama A Band Named Trevor. Il CD in questione è Smoke Dog Music, pubblicato proprio fresco fresco quest'anno, e il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato My Baby Blues, una composizione originale del gruppo. Un gruppo ben assortito, forte, che ha come carta vincente questo leader chitarrista veramente formidabile, talentuoso, che riesce a fare degli assoli con dei voli creativi veramente notevoli, intensi, fortissimi, e che tengono l'attenzione sempre in piena attività proprio per la sua fantasia, la sua creatività nei passaggi chitarristici. Dopo A Band Named Trevor è il momento di un artista italiano molto conosciuto, tra i più conosciuti bluesmen italiani, Roberto Ciotti, ahimè scomparso nel 2013, che potremo ascoltare insieme alla sua Electric Band dal CD My Blues in Road and Trail. Buon ascolto con Roberto Ciotti, Electric Band. Thank you. dream, living with no sorrows. I live inventing tomorrow. My life is rolling round. Life is running round out of this jam, running round, running round, running round. My life is running round. Bene, questo era Roberto Ciotti con la sua Electric Band. Il CD è stato pubblicato nel 2008, intitolato My Blues, e noi ci siamo ascoltati Road and Trail. Anche in questo caso una valida interpretazione che conferma la bravura, l'esperienza di questo grande bluesman italiano, che si esprimeva sempre con grande equilibrio, una certa morbidezza esecutiva ed espressiva che lo caratterizzavano. Un artista che ha lasciato un certo vuoto nel blues non solo italiano e che grazie alle sue pubblicazioni discografiche potremo ancora ascoltare, potremo quindi mantenere viva la sua memoria e poter godere ancora della sua buona musica. E la partecipazione di Roberto Ciotti a questa puntata mi dà l'opportunità di ricordare che sono alla ricerca di gruppi blues italiani, proprio perché sto notando che c'è una mancanza di materiale discografico, quello che c'è è molto nascosto, pochi lo conoscono, e quindi vorrei che la mia trasmissione fosse un'opportunità in più per poter far conoscere magari delle realtà blues di provincia molto interessanti, che solo per ragioni di varie, di business, di organizzazioni che non riguardano le band, magari sono un po' relegate nell'ombra, ma che meritano veramente la massima attenzione per qualità, per impegno, per anche per proprie composizioni, eccetera. Quindi sicuramente è mio piacere poter dare voce a cantanti, strumentisti blues italiani che abbiano realizzato delle pubblicazioni discografiche, chiaramente anche autoproduzione. I metodi per contattarmi sono tanti. Su Facebook esistono due profili a nome di Bruno Pollacci, esiste la pagina dei miei programmi, quindi la pagina di Anima Jazz, Blues Fires e Dubidubidù, e quindi esiste il sito di Anima Jazz che include anche Blues Fires e il Dubidubidù, quindi con la mail, quindi aspetto i contatti da parte di bluesmen italiani che abbiano appunto pubblicazioni discografiche, perché sarà mio piacere poterli selezionare ed inserirli nella programmazione di Blues Fires. Sarà possibile inviare sia CD fisici che CD in veste elettronica. Proseguiamo il nostro programma dopo la presenza appunto italiana di Roberto Ciotti con la sua Electric Band. È il momento di ascoltarci una new entry, anche in questo caso come alcuni dei CD che ho presentato in questa trasmissione. Si tratta di una pubblicazione proprio freschissima del 2015. L'artista è molto interessante, si chiama Anthony Gomez, è la prima volta che lo promuovo in Blues Fires. Il CD è intitolato Electric Field Holler e noi ci ascolteremo Listen the Universe, uno dei suoi pezzi più interessanti, almeno riguardo a questo CD, una sua composizione originale. Anthony Gomez. Buon ascolto. You've been riding, moving forward in reverse. Grande artista questo Anthony Gomez, che ancora deve farsi strada, specialmente qui da noi che è praticamente sconosciuto, ma è veramente un ottimo artista ricco di potenzialità sia sul piano strumentale. Avete sentito un chitarrista molto preparato, in gamba, con fantasia, con creatività, e nello stesso tempo ottimo vocalist, con la giusta grinta, con la forza, la giusta estensione, veramente interessante. Bene, siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. Il gruppo che vi presento è Around the Blues, che ha realizzato un CD intitolato Future Memories, dal quale noi ci ascolteremo Afraid to Be Me. Buon ascolto con Around the Blues. But they couldn't know that I would never be fulfilled living there. take my life with eyes open wide, or am I just afraid to be me? Queste le morbide sonorità di Around the Blues, il CD era intitolato Future Memories, il pezzo che ci siamo ascoltati era Afraid to be Me, molto bello, con delle belle performance sia strumentali che vocali della cantante di questo interessante gruppo che si presenta per la prima volta nei miei programmi. Con questo si conclude Blues Fires numero 70, l'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.